contro la sostenibilità. Ultimamente desidero spesso avere un revolver a portata di mano ogni qualvolta sento pronunciare la parola sostenibilità. La sostenibilità è diventata un argomento fantoccio per protrarre un'altra causa che detesto, la salvezza del capitalismo. L'obiettivo della sostenibilità è preservare le automobili, ma riprogettarle per funzionare a energia solare o gasolio vegetale, mantenendo intatte le autostrade, i parcheggi, gli aeroporti, i parchi residenziali, l'autocompiacimento della borghesia yuppie liberale col suo privilegio, trasformandoli in qualcosa di incolore, ecologico, biologico, sorridente, buono per l'ambiente, andando avanti così in modo sostenibile per sempre, per evitare il collasso. Lasciamo perdere la sostenibilità e l'efficienza, sono solo merdate. Al diavolo il capitalismo verde e la sua cornucopia corporativa perbenista di spazzatura per consumatori e cavolate mal progettate dai designer. La tecnologia non risolverà i problemi che ha causato, così come l'eroina non curerà la dipendenza da morfina. L'unico modo per liberarci dal controllo delle macchine è distruggerle. Hacking Bay. Grazie Olly. Grazie a tutti per essere venuti. Dico giusto due parole introduttive. Oggi presentiamo questo libro, si chiama La vendetta di Zarathustra e l'autore è Hacking Bay. Vorrei chiedere una cosa, quanti di voi sanno chi è Hacking Bay? Potete alzare la mano per favore. Ok. Quindi c'è una buona metà di persone che non sa che qua, per esempio, 25 anni fa c'era proprio lui con Primo Moroni, c'è un video bellissimo su YouTube che vi consiglio di guardare. Veniva qua a presentare il suo secondo libro dopo Taz, se non sbaglio, nel 97. Va bene, proviamo a raccontarvi un po' chi è stato Hacking Bay, che è morto esattamente un anno fa, cioè proprio oggi è l'anniversario della sua morte. Questo è il suo ultimo libro e ci è stato concesso di tradurlo e di pubblicarlo da lui in persona poco prima di morire, proprio. Noi non lo sapevamo che stava male, però insomma ha fatto tempo a dirci ok, portatelo in Italia. Ma intanto vorrei dire due cose. Noi arriviamo dal Salone del Libro di Torino, dove abbiamo presentato questo libro. Salone del Libro che, a mio modo di vedere, è diventato una specie di centro commerciale della cultura. Autori che si comportano come influencer o come che fanno le televendite. Non c'è più la televisione, però ci sono i social, non cambia molto, no? Magari davanti a tre persone, però l'importante è avere Instagram e dire comprate questo libro. Migliaia, decine di migliaia di libri, merce in totale sovrapproduzione. Editori, alcuni grandi che producono intrattenimento e molti piccoli che cercano di fare qualcosa di qualità, di interessante, con grande fatica. Il libro di cui parliamo oggi nasce dal lavoro di due piccoli editori, uno è Agenzia X, che forse conoscete, l'altro è Amper Books, che è un editore neonato, praticamente invisibile, quasi inesistente. Insieme, questi due piccole realtà hanno dato vita all'ultimo libro di Hacking Bay. Come nasce questo libro e perché lo portiamo qua oggi? Ma essenzialmente io penso questo, raccontare che cosa c'è dentro un libro è un po' come provare a raccontare un sogno, no, che si è fatto. Dovete leggerlo, non posso io cercare di dirvi perché perché leggerlo non riuscirò mai a trasferirvi quello che penso veramente, quello che ho provato leggendolo. Quindi farò una cosa, leggerò un pezzo del libro. Facciamo parlare a Kim Bay. Intanto partiamo dalla situazione in cui siamo, appunto, che ho provato un po' a descrivere. Dice a Kim Bay, a pagina 103, dice: gli intellettuali hanno molte proposte. Scrivere ai politici, fare yoga, migrare su Marte, mangiare a chilometro zero, cambiare la propria coscienza. È chiaro che se potessimo modificare la nostra dannata coscienza, il problema verrebbe subito risolto, perché la soluzione apparirebbe all'istante. Ma non possiamo farlo. Siamo bloccati nella condizione umana. Il denaro sta prendendo le proprie decisioni da solo. Perché è così che stanno le cose. È ciò che la natura ha voluto. L'assoluta legge del denaro. Finché c'era la speranza della rivoluzione, era ancora possibile una trasformazione della coscienza, ma vi abbiamo rinunciato per creare profili online e caricare la nostra anima nella macchina. Abbiamo voluto per noi stessi un'eternità da debitori schiavi dell'1% della popolazione miliardaria, che sono a loro volta i più grandi schiavi del denaro. La fine del mondo è un centro commerciale universale. Questa è un po' la situazione nella quale, a mio modo di vedere, ci troviamo e che viene descritta molto bene dall'autore, appunto. La cosa che vorrei dirvi, e poi passerò la parola, è che in realtà questo libro non si limita a compiacersi in una visione apocalittica e catastrofica, ed è per questo che l'abbiamo pubblicato. Perché è molto facile, no, dire che è tutto una merda e che va tutto male e che noi poi in realtà siamo i buoni. Contro il depressismo, le ceneri di questo pianeta, no. È facile, e da un certo punto di vista è anche vero, ok? Possiamo anche dircelo, possiamo andare avanti così tutta la sera a dire che viviamo in un mondo che non funziona. Ma la cosa interessante di questo libro, almeno parliamo del primo capitolo, questo libro contiene vari saggi, no? Il primo saggio, in realtà, dopo poche pagine, prova a mostrare delle possibilità, delle alternative. E Kim Bay ci mostra tre possibili alternative alla situazione nella quale siamo, pur avendo coscienza lui di quanto la situazione sia grave e praticamente irrecuperabile. Adesso io vi racconto queste tre strade, queste tre possibilità. Lui dice: se lo scenario da fine dei tempi è la realtà, che alternative rimangono oltre alla disperazione? Dopo averci pensato a lungo sono arrivato a tre strategie di base. La prima, escapismo passivo, la chiama, escapismo passivo. Cioè, tieni la testa bassa, non farti notare. Il capitalismo in fondo permette ogni tipo di stile di vita, quindi scegliene uno e cerca di godertelo. Ti è persino permesso di vivere come un contadino povero senza elettricità. Fuma erba, mangia pollo, bevi tè, come dicevamo negli anni 60. Spero che non ti becchino. Questa è la prima. Però poi va subito la seconda, che è l'escapismo attivo. E qua, per chi di voi conosce Kim Bay, torna il concetto di TADS. Poi magari loro che sono più bravi di me ci raccontano che cos'è la TADS. Il motivo per cui poi Kim Bay è così importante per il mondo della controcultura. E l'escapismo attivo è questo, dice: in questo scenario cerchi di creare le condizioni ottimali per l'emergenza di zone autonome, che siano esse temporanee, periodiche o persino semipermanenti. Nel 1984, quando ho coniato l'espressione TADS, l'ho concepita come un complemento alla rivoluzione, anche se già allora, a dire il vero, ero già stanco di aspettare qualcosa che non era capitato nemmeno nel 68. La TADS avrebbe dato un'idea o una premonizione di cosa significhi la vera libertà. Si sarebbe cercato di vivere come se la rivoluzione fosse già avvenuta, per non morire senza avere mai sperimentato la libertà libera, come diceva Rimbaud. Creati la tua utopia piratesca. Questa era la seconda. con una parentesi, dice, uno scenario che ho immaginato per l'escapismo attivo è quello di trasferirsi in un'area rurale remota insieme a diverse centinaia di altri socialisti libertari, eccetera, eccetera. Oppure un modello dell'avventuriero nomade, visto che tutto il mondo sembra essersi trasformato in un parcheggio gigante, però, dice, non so se questa opzione sia ancora possibile oggi, ok? Provare a scappare, viaggiare, visitare il mondo, insomma, sempre più complicato. Ma arriviamo alla terza. La terza possibilità è quella più enigmatica, ma anche la più potente da un certo punto di vista. Lui la chiama proprio vendetta, la chiama la vendetta di Zarathustra, che è il titolo che abbiamo dato a questo libro. Dice, la chiamo la vendetta di Zarathustra perché, come ha detto Nietzsche, una piccola vendetta è più umana di nessuna vendetta. Questa è la prima cosa che ci dice. E poi cerca di spiegarci un pochettino di più, ma la cosa interessante credo è che neanche lui poi alla fine ci dice tutto di che cosa sia questa terza possibilità. È più come se aprisse una domanda. Parla di desiderio di liberazione, parla di una sintesi tra anarchia e spiritualità, che poi è la corrente di pensiero per la quale noi lo conosciamo, questa capacità di fondere, no, le due possibili diciamo visioni del mondo. Parla di morte di Dio come possibile rinascita degli dèi, quindi la rinascita degli dèi, appunto, la risurrezione del grande dio Pan, del caos, di Eros, l'anarchia ontologica, il desiderio, la vita stessa. Parla di rivoluzione della vita quotidiana, ma in realtà è una domanda, è una domanda che rimane aperta e che ci pone. Che cosa possiamo fare per trovare dentro noi stessi le possibilità di un riscatto, di una liberazione? Allora vi leggo l'ultimo pezzo con cui conclude questo capitolo e dice: non importa quale dei tre percorsi si intraprenda, questi o altri che non sono in grado di immaginare, mi sembra che l'essenziale sia non collassare nella mera apatia. Forse dobbiamo accettare la depressione e forse anche la rabbia impotente, il pessimismo sulla possibilità della rivoluzione. Ma come ha detto il poeta anarchico E.E. Cummings, c'è della merda che non mangeremo a meno di non diventare noi stessi il nemico. Non si può andare avanti, ma bisogna andare avanti. Coltivare boccioli di rosa, persino piaceri egoisti, finché rimane qualche uccello e qualche fiore. Anche l'amore forse potrebbe non essere impossibile. Grazie. Allora, grazie a tutte. Proverò a spiegare in qualche modo a chi non conosce Achim Bey perché è tanto importante e cosa sono le TADS, dicevi, no? Giusto, Nico? Io sono un po' emozionato, cioè l'idea del dover spiegare a qualcuno cosa sono le TADS mi emoziona, anche perché è una cosa che in teoria sarebbe bello se lo sapessero tutti e tutte, ma appunto evidentemente non è così. In realtà magari tanto di quello che accade si è formato su questa idea di TADS, no? Che poi quel libro, diciamo, viene associato a è una sorta di manifesto per quello che poi è stata la cultura rave o la cultura hacker, il cyberpunk, una serie di, diciamo, di stiamo parlando del 94 quando viene, no, pubblicato qui, quindi il periodo era un po' quello. Lui stesso dice in un libro, non tradotto in italiano in realtà, un libro precedente di un paio d'anni a quello di Zarathustra, la zona autonoma temporanea, TADS, zona autonoma temporanea, è un'idea che alcuni credono che abbia originato io, e io non credo di averlo fatto, ho dato un nome intelligente a qualcosa di già esistente, e ciò che esisteva già era l'inevitabile tendenza degli individui, riuniti in gruppo, a ricercare la libertà. Quando parliamo di TADS, parliamo ovviamente di gruppi, non più di individui. Quando parlammo di Taz le prime volte che io ero un ragazzino negli anni 90, scusate, sembrava quasi che questo concetto fosse un po' una salvezza rispetto a una tendenza generale che sembrava che si stesse verificando a livello sociale e politico, che era quella voglio sintetizzare molto così, progressiva chiusura dei centri sociali, degli spazi libertari, dei luoghi anche banalmente pubblici, delle piazze in cui era possibile vedersi, socializzare, bere un bicchiere di vino e fumare una sigaretta o una canna. Pian piano negli anni 90 tutte queste opportunità, da piccole circolari comunali eccetera eccetera a importanti leggi invece nazionali, ci hanno incominciato a togliere dei pezzetti di libertà. La Taz sembrava questo mostro in grado di formarsi improvvisamente, perciò poi anche, no, la cultura rave, da una parte, diciamo, in un posto, nell'arco di mezz'ora, un'ora, si formava questo altrove temporale in cui era possibile fare cose che non si potevano fare nella quotidianità della vita normale. E quindi si creavano degli spazi enormi di libertà autogestiti in cui si iniziava a creare, o almeno diciamo quello magari doveva essere lo spirito, una sorta di cornice di consapevolezza intorno a queste aree di libertà, che poteva riguardare una serie di aspetti, quella dell'espressione individuale, del consumo di sostanze psichedeliche e tanto altro, con al centro chiaramente un'idea anche politica di fondo, che era quella di appunto far sopravvivere un'alternativa al sistema, delle idee di non dico rivoluzione, lui infatti parla di rivolta, parla di insurrezione, dobbiamo vivere in una perenne insurrezione, non è l'unico, no, ad averlo detto, per cui la Taz diventava l'espressione o anche, come ha detto Nico, no, non necessariamente una risposta, ma una bella domanda. Cioè a questa bella domanda c'erano un ventaglio di risposte possibili che si potevano dare. Quindi visualizzerei ciò di cui abbiamo bisogno: sono un'estetica, una tradizione di organizzazioni clandestine, non gerarchiche, reti economiche alternative. Visualizzerei la Taz come la periodica fioritura di successo di questi network. Per ogni azione pacifica di piacere, per ogni azione festosa, celebrazione di gruppo, credo che dovrebbe esserci sempre una corrispondente azione terroristica poetica o insurrezionale. Per terrorismo poetico intendo soprattutto azione non violenta, ma azione che abbia un impatto psicologico comparabile alla potenza di un atto terroristico, eccetto per il fatto che si tratta di un atto di cambiamento della coscienza. È uno strano mix di azione clandestina e menzogne, che sono un po' l'essenza stessa dell'arte, con una tecnica psicologica penetrante che valorizza la libertà, sia a livello individuale che sociale. Come ha detto Blake, devo avere un mio sistema personale o diventerò schiavo di quello di qualcun altro. E questo si applica ai gruppi di affinità, non soltanto ai singoli individui. Poi devo dire che su questo discorso del terrorismo poetico, in questo libro in particolare, lui fa un passo indietro e dice: non vorrei essermi esattamente sbagliato in tutti questi anni in cui ho parlato di terrorismo poetico. Perché? Perché qua invece si lancia più appunto sul discorso della vendetta e su un discorso di vero terrorismo. Anzi, c'è un bel capitolo in cui lui si interroga proprio su cosa sia a chi appartiene la violenza e che cosa rappresenta. Questa era un po' una sintesi dell'idea di Taz, che poi, zona autonoma temporanea, da lì nasce invece la PAZ, zona autonoma permanente. Questa è una di quelle, quella che ci ospita, ringraziamo Conchetta, che appunto ha anche ospitato Akin Bey in vita negli anni 90, in tempi non sospetti, se non ricordo male anche forse con un accompagnamento musicale di Steve Piccolo, ma potrei dire una fesseria. Chi è Akin Bey è interessante, perché poi chi lo conosce principalmente lo conosce proprio per le Taz. Il mio punto di vista è che è vero che quella, aver descritto, come dice lui, qualcosa che già esisteva in quella maniera è stato sicuramente di ispirazione per tantissimi, lo è ancora, lo è tuttora a distanza di decenni. Però poi l'importanza di quello che lui rappresenta va oltre il discorso delle Taz, anche perché Quando poi lui viene fuori negli anni 90, viene fuori con Taz subito dopo con un libro che si chiama Utopie Pirata, parla delle utopie pirata nella storia, dall'antichità ai giorni nostri, e a un certo punto degli anni 90 dice: ma Akin Bey, Peter Lambert Wilson, ah, ma è la stessa persona, sono due persone diverse, ah no, è quello delle Taz. Si scopre pian piano, nell'arco di qualche anno, che questa persona che parla di Taz, di insurrezione, di anarco misticismo, eccetera, è proprio un esperto di storia delle religioni. Cioè lui fa quello. C'è un video che abbiamo mostrato qualche mese fa di repertorio di un suo reading, in cui lui dice: guardate, se proprio dovete mettermi un'etichetta, cioè nel senso, se proprio dovete dire che cosa sono, io sono uno storico delle religioni. E c'è poco, cioè è così, anche perché lui viene espulso dall'India perché fa il fricchettone negli anni 60 sulla scia, diciamo, della rivoluzione psichedelica di Timothy Leary, e quindi e ritorna più volte anche in questo libro sul discorso del vagabondaggio senza meta, sulla ricerca spirituale senza uno scopo, e quindi dall'India e dalle culture orientali, dopo la psichedelia, lui in realtà poi passa in Iran, dove sta praticamente per quasi 10 anni, finché poi Khomeini non arriva negli anni 80 e lì telare, scappare. Lui sta in Iran ufficialmente a studiare in università e è collega anche di Henri Corbin, che è una personalità importantissima nello studio delle religioni, dell'Islam in particolare. È uno, diciamo, molto molto anche vicino e legato a poi gli studi in ambito, diciamo, controculturale, anche psichedelico, che sono stati fatti in quegli anni, e lui è il traduttore ufficiale in inglese di opere importanti, cioè di poeti, diciamo, persiani importanti. Questo accade nel 75, nel 76. Elemir Zola, che è un altro eminente storico delle religioni e dell'esoterismo, che aveva negli anni, nel 69, fondato una rivista quadrimestrale che si chiama Conoscenza Religiosa, invitava un sacco di persone a scrivere su questa rivista. Uno di questi è Akin Bey, a partire dagli anni 70. Cioè, quindi in realtà, quando noi conosciamo Akin Bey con le Taz, questa è una persona esperta di religioni ed esoterismo che già da tanti anni scrive cose importanti a livelli anche notevoli. In questi scritti, in realtà, di storia delle religioni è possibile rintracciare i semi persino di Taz e di altri libri che poi arrivano nella fase, chiamiamola così, politica. La fase politica inizia nell'84, dice lui in questo libro, perché la prima edizione di Taz è The Ontology of Anarchy, l'ontologia dell'anarchia, che è un libro autoprodotto, fatto a mano, dell'85. A questo proposito, lui si inserisce perfettamente nel festival Quello che facciamo è segreto, per il semplice motivo che il primo libro scritto da lui nel 74 è autoprodotto e serigrafato a mano. È una raccolta di poesie che lui scrive lui sotto pseudonimo, facendo finta di essere un autore sufi che scrive poesie, tutto con serigrafato con calligrafia stile islamico, però in realtà poi scritte poesie in inglese. Quindi lui parte con un'autoproduzione, dopodiché inizia a fare le traduzioni ufficiali per l'Università di Teheran. Poi negli anni 80 diventa, diciamo, prende questo pseudonimo, probabilmente per tutelare la sua carriera accademica, decide di chiamarsi Akin Bey e di scrivere delle cose un po' più estreme. E quindi con le autoproduzioni. con le quali termina la sua vita, perché poi alla fine, anche diciamo un paio d'anni prima, ma anche prima di questo libro qui, lui si diverte a prendere stralci dei lavori che ha fatto e a pubblicarli su carta di riso nepalese in edizioni limitate di 200 copie, 300 copie, quindi questa cosa qui resta fino alla fine, anche perché lui spiega più volte nei suoi testi perché ha scelto la scrittura come arma rivoluzionaria, perché è l'unico dei media che permette di intellettualizzare, ma permette anche un certo distacco, dice lui. Viva i libri! Posso fare un intervento breve? Sì, io non mi volevo dilungare, infatti. No, è stato bello. Benvenuto, Filopat. Ti aspettiamo sul palco. Spezzo con un pezzo dal libro, poi passo la parola a Abo. Lo schermo prende il posto dell'anima o psiche. Offre il paradiso di cristallo che una volta veniva promesso dai dualisti gnostici che rinnegavano il corpo. Lo schermo ci offre tutti gli antichi sogni della magia, visione lontana, preveggenza, istantaneità, telepatia, la biblioteca universale di tutta l'informazione di ogni tempo. Mappe che ci impediranno di perderci o di sapere dove siamo, tutte le comodità, tutti i desideri a portata di un pulsante, che sorveglia ogni nostra mossa e pensiero per proteggerci dai terroristi e venderci ciò che vogliamo ancora prima di realizzare che lo vogliamo. Immortalità virtuale, volo sciamanico virtuale, la simulazione di una coscienza virtuale molto più divertente e meno minacciosa della coscienza con cui siamo nati, pensieri nuovi e brillanti di altre persone, pronti a rimpiazzare i nostri vecchi rimuginii, una connessione istantanea al nostro conto in debito perenne, la protesi per l'anima. Un'intelligenza aliena in tasca per 200 euro, tutto su un piccolo schermo e il nostro specchio magico portatile. Hacking Bay. Beh, intanto vi ringrazio per l'invito. Io non sono un akimbeiano, neanche un akimbeista, anzi un akimbeiasta. Vieni fino qua. Vieni. Ma quindi, vabbè, il libro è un volume assolutamente eclettico, leggetelo. Va dall'alchimia al fumetto primo novecento, dall'occultismo al neoceltismo, insomma, tutta roba di cui non saprei parlare. Quindi vi proporrei invece un intervento dal titolo Affinità e divergenze tra il compagno Akinbey e noi nel conseguimento della migliore TADS. E dove il noi sta a significare una postura e una sensibilità, un'attitudine libertaria. Parafrasando compagno di Milano, l'anarchia è come il veleno. Se l'assumi al 100% ti uccide. Però se trovi una tua gradazione e provi nel tempo ad alzarla, senza mai raggiungere uno stato di sobrietà, di sana sobrietà, ma cercando insomma di andare in là, ti può accompagnare in un viaggio unico. E quindi parto da un altro volume, o meglio da una delle tante esperienze in cui Akinbey ha provato a flirtare con l'anarchia, non necessariamente con l'anarchismo intesa come filosofia politica e come nobile tradizione con due secoli di storia alle spalle, a partire dalla vicenda della Repubblica Moresca di Salé, che, prima cosa curiosa, appunto le utopie pirata, precede di un secolo l'epoca d'oro delle utopie pirata, diciamo, caraibiche. Ce ne sono un sacco di altre, dal Madagascar, Nassau, Runters Bay, insomma, ce ne sono state. Lui ne sceglie una fondamentalmente, quella a suo parere più compiuta, più interessante, e lo fa utilizzando un lemma preciso. Lui parla della sua narrazione come di una piratologia, quindi come il tentativo di rifuggire sia una postura disciplinare di storico, che non ha e non rincorre, sia quella un po' agiografica e apologetica di chi vuole trasformare un'esperienza storica in una dimostrazione fattuale del fatto che forme di TADS permanente sono possibili, si sono già date e quindi è possibile anche reiterarle e riprodurre in altri contesti. Ma quello che cerca di mettere in luce, e in questo sì il suo contributo è unico, di questa esperienza, sono diverse sfaccettature. Anzitutto la capacità di intercettare un meticciato, una mixité culturale di genti in fuga dal vampirismo e dalla violenza del cristianesimo in direzione appunto delle coste marocchine. In seconda battuta, la capacità di rifuggire la dimensione del conflitto senza ritirarsi, diciamo così, ritirandosi sì da un tentativo insurrezionale, ma attraverso l'insorgenza, costruendo, postulando, diciamo così, una slealtà con la S maiuscola, motivata, praticata. In terza battuta, la capacità di andare a costruire un'autonomia che è stata completamente negata da tutta la storiografia, anche quella marxista, in cui una certa modernità nasce dalle rivoluzioni borghesi, attraverso tre elementi taciuti. Il dotarsi di una lingua, quindi la costruzione di comunità attraverso un esperimento linguistico, il Sabir. Il dotarsi di un territorio che non è, come in tutta la narrazione della pirateria, la galera, l'imbarcazione, la flotta, ma è l'isola, il porto, la conquista di un'autonomia sulla terraferma, che evidentemente nel caso della Repubblica Moresca e Berbera si era data in forma più compiuta che altrove. E in terza battuta, denunciando in maniera assolutamente provocatoria, disturbante, fastidiosa, anche tutti quelli che sono gli elementi di caduta di questa esperienza, con una qualche onestà appunto da pungolo, che sono le brutture, i tabù e tutto ciò che di distonico appartiene a questa esperienza, la pederastia, la prostituzione, la tratta. A partire da questo, che non è né il primo, insomma, delle bibliografie ordinate, poi chiedete a Tobia, però a partire da questo testo, che io credo sia stato sempre letto e anche recensito, portato in giro con una postura un po' esotizzante, invece mette degli elementi di assoluto interesse rispetto a tante altre narrazioni sull'argomento, lui comincia a flirtare in maniera esplicita con tanti pensatori, pensatrici, pensatori e movimenti della tradizione libertaria, che al pari di tantissime altre influenze, chiaramente è stata quella religiosa e spirituale, Nietzsche, il nichilismo e via discorrendo, però tutta roba di cui non capisco una mazza, quindi mi tengo, diciamo, sulle quattro cose che mi ricordo. Lui fa a partire chiaramente dal socialismo utopistico, quindi grandi riferimenti a Proudhon. Tra l'altro la sua passione, coeva diciamo nel periodo, la sua passione per il falansterio Fourier, così tornerà in maniera ricorrente nella produzione, che non è una produzione teorica, nella evocazione della Taz, nella sua interpretazione di situazioni attraverso la parola iconica della Taz. Fa tantissimo riferimento per esempio alla dimensione liberante della danza in Emma Goldman, ma anche alla vocazione invece immediatamente sindacale del sindacalismo rivoluzionario nordamericano degli IVV. Fa riferimento a un filosofo e poeta, in maniera quasi ossessiva, italiano, dimenticato, socio di Disavventure di Sante Pollastri, Renzo Novatore, e cito Renzo Novatore perché purtroppo tante altre volte invece nelle sue cadute periodiche, come tutti, si affonda nelle paludi, nutre anche una spinta passione anche per il D'Annunzio, diciamo, che precede la conquista di Palazzo Marino, ma sicuramente della fase di Trasvolatore e di Fiume, via discorrendo. Però, diciamo, dentro quella dimensione poetica di Renzo Novatore possiamo ritrovare i prodromi di quella che sarà la sua proposta, poi dei comunicati, dell'anarchia ontologica. Venendo, come dire, giocando così con la macchina del tempo e avvicinandoci ai giorni nostri, a un certo punto Hakim Bey, una delle pagine a mio parere più felici, anche se lui non è il protagonista in questo caso ma è lo sparring partner del carteggio tra gli anarchici e Hakim Bey, perché è sparring partner, perché invece quello da cui prende più mazzate di tutti quanti è sicuramente Murray Bookchin, a cui Hakim Bey stava profondamente sulle palle, e lo massacra. Lo massacra perché Hakim Bey chiaramente è uno che cerca di dialogare, di intercettare e di confrontarsi anche con le nuove scuole del pensiero libertario. Lo fa con Bob Black a partire appunto dalle Repubbliche Moresche, in cui lui preconizza una sorta di rifiuto del lavoro nella predazione, nel saccheggio, per poi godere per mesi di questo. Quindi Bob Black e l'abolizione del lavoro. Oggi Bob Black è diventato tabù, nascondete l'opuscolo, perché i compagni hanno detto che ha denunciato per produzione di metanfetamina un vicino di casa e che quindi va dimenticato. Flirta sicuramente con John Zerzan dicendogli: è una fesseria che dobbiamo ritornare al paleolitico, dobbiamo certamente ripensare dal paleolitico, e comincia tutto un gioco di parole anche con quella, come dire, con le filosofie anarco-primitiviste. Ma da Murray Bookchin prende un sacco di schiaffi. Adesso però vi cito le sue parole, perché così non le, adesso se qua si interpreta, ma non vorrei esagerare. Che lo accusa di misticismo del profeta, lifestyle anarchism, esistenzialista, elogio dell'ignoranza. Chiaramente la cosa che critica di più è il suo elogio dell'ignoranza descolarizzata, dicendogli: se porti alle estreme conseguenze i tuoi ragionamenti, nessuno sarà in grado di comprendere le cose già astruse che ci proponi. E di convocare un'autonomia dell'individuo, il primato dell'autonomia dell'individuo di fronte alla rilevanza del fatto collettivo, corale, della rivoluzione attraverso invece la libertà come fatto sociale. Questo lo porta, come dire, la cosa interessante di tutti questi incontri scontri, anche quelli più feroci, anche quelli che portano al distanziamento da quel milieu libertario e propriamente anarchico, è che lo fa con una matrice di pensiero in cui non esiste ortodossia, e quindi in cui lui può giocare dall'anarchismo ontologico alla Taz, alle Repubbliche Pirati, dentro un viaggio che è assolutamente diacronico dentro la storia dei tentativi liberanti, può giocare da pungolo per un movimento che vive nella stessa sofferenza, nello stesso dinamismo, tra necessità di liberazione a partire dall'individualità, e in questo la postura, diciamo, di artista di Hakim Bey è fondamentale, perché lui tenta un superamento della proposta situazionista attraverso la dimensione della soggettivizzazione radicale attraverso l'arte, però dall'altra parte tiene a dire: ok, rifiuto la rivoluzione, non ci sto credendo, vorrei crederci ma non ci sto credendo, ma continuo a essere curioso nei confronti dei fenomeni che si danno. Per questo motivo lo vediamo interessarsi ed essere un buon cantore, non mai scontato del movimento zapatista, della dimensione del confederalismo democratico nella regione curda, dello zoroastrismo, così giusto per citare anche Zarathustra, degli esidi. È una persona estremamente attenta a dire: non mi sento uno di voi, ma un po' mi piacerebbe, e comunque ogni volta che arrivo, arrivo col pungolo in mano per cercare di dichiarare che nessuno è libero dalla mia provocazione, nessuno è libero dalla mia funzione disturbante. Questo è il mio pormi in dialogo con i movimenti, e questo è il mio tentativo di dire: non farò nessuna proposta, proverò a interpretare e a scegliere un lessico adeguato alla mia posizione di artista per trovare dei toni icastici con cui descrivere una realtà insorgente. Questo è il nomadismo psichico, questo è l'anarchia ontologica, questa è la CHAS di Capitol Hill, che forse è il più bel, e involontario ovviamente, gratuito, perché lui parla anche, questa c'è una riflessione molto bella che fa in realtà sulla violenza e l'odio, non in termini apologetici, ma attraverso la gratuità del gesto della violenza, tra parentesi di classe, non lo metto in quella frase, però insomma credo che ci possa stare, e c'è un bel regalo, una bella restituzione che viene fatta al nostro Hakim Bey, che è appunto la CHAS di Capitol Hill, che è una forma mai compiuta, perché la TAS non può che essere nomade, effimera, impermanente, talvolta si stabilizza e a un certo punto svapora per ripresentarsi in forme inedite e al tempo stesso inaudite, però pensare non soltanto che ci ha lasciato un anno fa, ma che nel momento in cui Hakim Bey se ne andava come nella sua corporeità, a fronte di un capitale, di un processo di finanziarizzazione che è estremamente sempre più incorporeo, e su questo il volume su cui vi stiamo solleticando oggi, insomma, insiste a più di una battuta. Ecco, dall'altra parte germogliava dalle sue ceneri un nuovo laboratorio che viveva di esperienza liberante. In questo lui non è squisitamente neonichilista, ma è anche assolutamente fiducioso nella capacità formativa, educativa dell'esperienza, della situazione, dell'evento condiviso, e questa roba sorgeva come una fenice, appunto, risorge dalle ceneri. Spero di aver detto qualcosa, nulla sul libro, ma di interessante. Bravo. E il libro lo trovate all'interno. Scusate il ritardo, ma forse c'è anche un motivo, perché qui siamo una generazione dopo Taz. Io sono un sessantenne, loro sono quasi tutti quarantenni, e è anche giusto che il libro l'hanno portato avanti loro. Sono andato in ritardo e quindi non ho neanche sentito troppo, però diciamo che questo ultimo intervento di Abo fa un po' una chiarezza, che questo è il suo ultimo libro. È morto da un anno, e quindi in qualche maniera sono le ultime sue riflessioni, ed è giusto che un personaggio che comunque in tutte le maniere, in tutte le sue contraddizioni, è stato un personaggio che ha fatto la storia del movimento internazionale dalla seconda metà degli anni Ottanta fino appunto alla sua morte dell'anno scorso. Questo libro serve per una riflessione, per il superamento, anche perché, diciamolo chiaramente, io nella prefazione lo dico, era un fattone, Hakim Bey era uno che gli piaceva fumare mille canne. Quando è venuto qui, vi ricordate, abbiamo dovuto alimentarlo con massicce dosi di THC, perché comunque era quella persona lui. Io ho sempre pensato questo, infatti nella prefazione io dico la scrittura di Hakim Bey è come guardare un quadro di Pollock, che ci puoi vedere dentro qualsiasi cosa, soprattutto se venivi da un'esperienza controculturale. Alcune pagine di Hakim Bey erano assolutamente folgoranti, come il concetto della Taz, che nasce con l'arrivo dei rave, che era un po' quello la questione. Quindi è anche giusto che un libro del genere esca fuori in un momento che in qualche modo è il suo superamento, con tutte le sue contraddizioni, andare a cercare quello che ha appena finito di dire in maniera splendida Abo. Io credo proprio questo. In qualche modo la vita di Hakim Bey è stata anche la vita di decine di migliaia di persone che hanno fatto dell'attivismo radicale dalla seconda metà degli anni Ottanta fino adesso. Quindi, insomma, andiamo a cercare quello che la sua scrittura ha stimolato in tutti noi. Io credo che sia anche un libro, questo, che soprattutto il primo capitolo, il nuovo nichilismo, che appunto dava il titolo del libro, che noi abbiamo preferito con Ampère di cambiarlo, perché ci sembrava quasi buttare in titolo un nuovo nichilismo era come una cosa di sconfitta, che non era per niente nel pensiero complesso di Hakim Bey. E quindi la vendetta di Zarathustra era una piccola vendetta che forse al giorno d'oggi sarebbe anche da mettere in moto dentro noi per quello che sta succedendo adesso. È sicuramente una fase che soprattutto nei movimenti controculturali e nei movimenti politici radicali della sinistra radicale deve essere portato avanti. Ecco, io credo che un libro del genere possa essere importante per un superamento della questione di Hakim Bey. Anche altri capitoli che invece a me mi sono molto piaciuti, tipo Odio Borghesi, che è quello secondo me è il terzo, quarto capitolo. Questo non so se l'avete detto. Sì, la parte della vendetta l'ho raccontata io mentre tu non c'eri, quindi sei arrivato tardi ma ti sei perso. Scusate se magari mi ripeto, però il capitolo Odio Borghesi, io vi invito a chi comprerà il libro di leggerlo per primo, perché forse è il suo vero testamento, è il suo rapporto anche personale con il borghese che si annida dentro di sé. In qualche modo è una critica, infatti a un certo punto lo dice chiaramente, sono la classe media che in qualche modo vorrebbe diventare ricca e per farlo si prostra ai veri ricchi. È un tentativo, credo, di far capire che la lotta di classe fa parte del genere umano, da quando si è nato l'uomo, è nato l'essere umano, appunto, è in qualche modo una cosa che bisogna combattere anche dentro se stessa. Ecco, poi ci sono altri capitoli che sono un pochino più pallosi, tipo quando si dilunga sulla questione della cultura celtica, che, ripeto, uno ci può vedere qualsiasi cosa dentro, anche nella sua ricerca del rapporto tra religione, misticismo, droga. Una pagina non la si capisce, l'altra pagina magari è illuminante, ognuno per i suoi percorsi di studio, di ricerca, di semplice curiosità. Ecco, io ricordo che a Kimbeck, quando è venuto qua, e sono contentissimo che la prima presentazione di questo libro venga fatta in Conchetta. Un applauso a Conchetta, che ha secondo applauso al Conchetta, ospitato nel 97, sì, 20 anni fa e anche adesso alla sua morte. Grazie. Adesso Carolina forse ci legge un pezzettino da Taz, così chi ancora non ha capito bene di chi stiamo parlando, esatto, ce lo inquadra un attimo. Sì, un po' un altro pezzo folgorante all'interno un po' di questo multiverso linguistico che Achim Bey riesce a generare. L'universo vuol giocare. Stregoneria. La coltivazione sistematica di coscienza arricchita o non ordinaria, e il suo impiego nel mondo dei fatti e degli oggetti per procurare risultati desiderati. Le aperture incrementali di percezione gradualmente bandiscono i falsi sé, i nostri rumorosi ospiti. La magia nera dell'invidia e della vendetta fallisce perché il desiderio non può essere costretto. Dove la nostra conoscenza della bellezza armonizza con il ludus nature, lì inizia la stregoneria. No, non il piegare i cucchiai, l'oroscopo, non la golden dawn, il finto sciamanismo, proiezione astrale, la messa satanica. Se volete le boiate, cercate la roba seria, politica, scienze sociali, banche, non quelle deboli stronzate blavatskiane. La stregoneria agisce nel creare intorno a sé uno spazio psichico e fisico o apertura in uno spazio di espressione libera. La metamorfosi del quotidiano nella sfera angelica. Questo ha a che fare con la manipolazione dei simboli, che sono anche cose, e di persone, che sono pure simboliche. Gli archetipi forniscono un vocabolario per questo processo e vengono trattati come se fossero assieme reali ed irreali, come parole. Yoga immaginale. Il mago è un semplice realista. Il mondo è reale. Ma allora anche la coscienza deve essere reale, dal momento che i suoi effetti sono così tangibili. Lo sciocco trova insipido anche il vino, ma il mago può ubriacarsi alla semplice vista dell'acqua. La qualità della percezione definisce il mondo dell'intossicazione, ma per sostenerlo ed espanderlo, per includere altri, richiede attività di un certo tipo, stregoneria. La stregoneria non rompe alcuna legge di natura, poiché non c'è nessuna legge naturale, solo la spontaneità della natura naturans, il Tao. Tra l'altro questo poi lo riprenderà l'ultimo Achim Bey sull'immediatismo, che ha scritto i saggi sull'immediatismo. La stregoneria viola le leggi che cercano di incatenare questo flusso. Preti, re, oracoli, mistici, scienziati e bottegai, tutti marchiano lo stregone nemico per aver minacciato il potere della loro sciarada, la forza tensile della loro illusoria ragnatela. Una poesia può funzionare come incantesimo, e viceversa. Ma la stregoneria rifiuta una metafora per pura letteratura. Insiste che i simboli debbano causare gli eventi come pure apparizioni private. Non è una critica, è un rifacimento. Rigetta ogni scatologia e metafisica di rimozione, tutta la nostalgia sfocata, il futurismo stridente, in favore di un parossismo e un sequestro di presenza. Incenso, cristallo, pugnale, spada, bastone, abiti cerimoniali, rum, sigari, candele, erbe come sogni secchi. Il ragazzo vergine che fissa dentro una tazza d'inchiostro, vino e ganja, carne, yantras, gesti, riti di piacere, il giardino di Uris e Sakis. Lo stregone sale questi serpenti e scale verso un momento che è pienamente saturato dal suo colore, dove le montagne sono montagne, gli alberi alberi, dove il corpo diviene tutto il tempo, l'amato tutto lo spazio. Le tattiche dell'anarchismo ontologico sono radicate in quest'arte segreta. Il caos maledice i suoi nemici e premia i suoi devoti. Questo strano pamphlet ingiallito, pseudonimo e macchiato di polvere, rivela tutto, manda a richiedere un istante di eternità. Grazie. Insomma, avete capito che Achim Behn è un personaggio non facilmente inseribile in una categoria, anzi forse sarebbe proprio sbagliato provare a mettergli un'etichetta sopra, eh? Parliamo di un filosofo, di un poeta, di un anarchico, di un viaggiatore, di qualcuno che ha esplorato i confini della mente attraverso anche esperienze psichedeliche. Insomma, in questo libro c'è tutto questo e anche di più. Nel suo pensiero ci sono strade ancora inesplorate. Ecco, quello che scriviamo un po' è che ciò che lui ci mostra attraverso non solo i suoi scritti ma anche la sua vita, perché poi è questo che è interessante, no? Del personaggio, non è semplicemente un teorico, è qualcuno che attraverso la sua vita ci ha mostrato la possibilità di creare delle zone temporaneamente autonome, sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista mentale. Ecco, ci mostra la possibilità di intraprendere delle strade ancora da conoscere. Dico un'ultima cosa, allora il libro contiene un'introduzione di Marco Filopat e una postfazione, che è una biobibliografia di Tobia. Questi due testi verranno tradotti, cioè, tra l'altro voi forse non lo sapete ancora questa cosa, l'editore americano ci ha chiesto di tradurli e di inserirli nel sito che stanno producendo in onore a memoria di Peter Wilson, di Achim Behn. Quindi stanno lavorando a un portale online, insomma a un sito online dedicato al suo pensiero, nel quale troveranno spazio anche per i lettori americani i due testi inediti che racchiudono nel libro, che abbiamo pubblicato nel libro. A questo punto direi che, insomma, sì, se ci sono delle domande, siamo qua. Sì, no, appunto, preparatevi le domande. Io volevo soltanto dire che, appunto, da un lato il discorso complesso dell'intreccio che lui fa tra anarchismo e correnti remote del sufismo o dell'induismo o del taoismo, perché lui fa il parallelismo tra l'anarchismo e il taoismo antico. Da un lato, diciamo, tutto questo è una delle cose che io personalmente amo di più e ritengo più interessanti. Dall'altro era importante rimarcare, come facevo prima, in merito al discorso delle autoproduzioni e il fatto che lui dall'inizio alla fine abbia autoprodotto testi cartacei, particolari, eccetera eccetera. C'è da dire che questa, cioè, lui dice: io sono uno storico delle religioni. In realtà è un poeta, non si sa se è artista, poeta, come poterlo definire, però sta di fatto che negli ultimi anni della sua vita lui scrive per cataloghi d'arte di artisti, cioè o associa le sue parole, le sue poesie ai dipinti di alcuni artisti e quindi figura nei cataloghi di questi artisti, oppure addirittura scrive delle sorte di testi critici. Uno di questi si chiama Nostalgia Utopia e lo scrive per una mostra di New York di Francesco Clemente, che non so se molti che disegnano qua sapranno chi è, un artista molto grosso delle neoavanguardie italiane, che appunto è in mostra fisso al Guggenheim, eccetera, per cui diciamo che in tutto questo sorta di sincretismo che lui fa fra varie discipline, se si può dire così, la poesia e l'arte sono quelle che fondamentalmente poi vanno ad amalgamare, cioè sono quelle alle quali lui punta di più, no? E infatti nel libro dice: io per tutta una vita ho parlato del discorso che l'arte va brandita come se fosse un'arma. Questa cosa dell'arte che diventa una vendetta di Zarathustra, quindi un motivo di ribellione autentico in un contesto quale quello contemporaneo del nichilismo di oggi, a me mi torna in mente il discorso di Lesiano sull'anti-Edipo, cioè quanto il potere effettivamente usi la ribellione ai propri fini. Cioè, il discorso dell'Antidipo era che conoscono i nostri sistemi di liberazione, la TASA, eccetera, le vendette autarchiche, l'escapismo attivo, quanto possono essere manipolati retroattivamente questi sistemi di... Non so, la mia domanda è questa. Sì, la risposta è che se stai a pensare come viene manipolato il tuo lavoro retroattivamente invece di farlo è una perdita di tempo. No, uno lo può anche fare, però è... Tanto chi ne abusa retroattivamente ha già perso. No, l'importante è farlo, cioè non si può fermarsi a pensare se le mie azioni verranno retroattivamente associate. Magari è vero, insomma può essere... Ho capito la domanda. La domanda è anche relativo al primo capitolo, cioè quanto l'arte diventa un strumento dell'elite piuttosto che invece il fumetto, che è un media, è un sistema di comunicazione, una modalità espressiva estetica che perde l'aura, smette di essere un media collezionabile, vendibile a grandi cifre, sì. Non entra nei musei, quindi nelle istituzioni del padronato monetarizzabile, finanziarizzabile dell'arte, ma è appunto ha questa vocazione di sfuggire a questa tentazione del sistema di inglobare veramente anche i fenomeni più ribelli e anarchici. Cioè fino a che punto la vendetta di Zarathustra, quando si parlava appunto delle dosi massicce di anarchia da somministrare a seconda del livello di esperienza, quindi quanto si può arrivare a assumere una certa dose di anarchia senza superando il rischio di implodere. Questa è la mia considerazione riguardante anche... Allora, intanto grazie perché ci hai ricordato che nel libro si parla anche di fumetto, quindi per dire che non c'è solamente appunto la poesia, la filosofia, la spiritualità, l'esoterismo, c'è anche un bel capitolo sul fumetto. Quello che cerca di spiegare Achim Bey è che la potenza eversiva del surrealismo delle origini, che poi va a decadere perché ovviamente anche quel tipo di movimento poi viene assorbito, no? Dal sistema, dalla macchina capitalista, per cui oggi un quadro di Man Ray o di Dalí costa milioni di dollari, non oggi in realtà, da decenni, e quindi diciamo la capacità di scardinare il pensiero e di sovvertire il paradigma originariamente ovviamente poi va a decadere perché diventa esso stesso il paradigma commerciale, anche il surrealismo stesso. Ecco, questo tipo di potenza invece, dice Achim Bey, lo possiamo ancora oggi ritrovare in un certo tipo di fumetto, in un certo tipo di produzione artistica underground. Lui fa dei nomi un importanti, per esempio parla di Crazy Cat, che è uno dei più importanti, una delle più importanti strisce fumettistiche americane degli anni 20 e 30, che ancora oggi mantiene, contiene ancora quell'aura e quella potenza, diciamo, eversiva. Proprio grazie al fatto che si parla di fumetto e quindi qualcosa di riproducibile, quindi non è un'opera d'arte in vendita in un'asta, ma è qualcosa che può ancora circolare liberamente. Hakim Bey naturalmente è vastità, parte dalle religioni, va alla filosofia e naturalmente finisce dove la filosofia deve finire, cioè nella poesia. Questo cavolo di governo che abbiamo, il primo provvedimento che ha fatto si collega direttamente con l'idea delle TAZ, della festa, del rave, dicendoci questo: il primo provvedimento che facciamo è andare contro Dioniso, perché il rave, che naturalmente non è invenzione recente ma che appartiene alla storia dell'umanità, deriva per esempio dai misteri di Eleusi, che erano proprio dedicati a Dionisio, il dio dell'ebbrezza, il dio della festa, della gioia, dello scatenamento dei sensi. E infatti il primo provvedimento è andare contro Dioniso, cioè praticamente andare contro la vita, la gioia. Ok, un suggerimento di Hakim Bey con le sue tre proposte, lo dico molto chiaramente a tutti, porta a una quarta possibilità, che si ricollega anche all'idea di Nietzsche, secondo cui l'artista, i creativi, devono smetterla di stare da soli, di essere isolati. Perché quello che piace tanto a chi non ci ama, diciamo così, è vederci isolati, separati, lontani gli uni dagli altri, a fare ognuno la sua cosa. Allora Nietzsche invita molto direttamente e dice che il compito dell'artista è quello, ed è il supremo compito ed è anche l'unico, quello di creare feste permanenti. E allora rave, capisci? Siamo sempre lì, no? E allora rave. Allora qual è la mia idea? La mia idea è che dalle tre proposte di Hakim Bey ne possa nascere soltanto una quarta, che io la vedo come percorso obbligato. E cioè creare forza d'urto mettendosi insieme, non stando più separati, che Conchetta fa la sua cosa, Torchiera fa la sua cosa, Leoncavallo fa la sua cosa, io faccio la mia cosa e gli altri fanno la loro cosa. Noi dobbiamo trovare una formula, che è proprio la quarta proposta che mi scaturisce naturale dalle tre di Hakim Bey, no? Che è quella di dire: facciamo cartello. Cioè, quando Conchetta fa qualcosa, non lo fa in quanto Conchetta, lo fa a nome mio, lo fa in quanto Torchiera, lo fa in quanto Leoncavallo, lo fa in quanto a tutte le migliaia di artisti che ci sono in giro per il paese, per cui quando facciamo una proposta, no, a questa popolazione, la facciamo non a nome nostro personale, ma la facciamo a nome di una potenza d'urto collettiva, di insieme. Grazie. Questa è la proposta che è naturale pensare in, nell'idea di Hacking Bay, il quale, devo smettere? No, il quale voglio sottolineare soltanto, per finire, il coraggio. Quando io ho letto Taz sono rimasto spiazzato. Certo. Perché? Perché ci sono dei tabù che ci portiamo dietro, no? Negli anni 70, io mi ricordo, non potevo citare Nietzsche perché sennò venivo bastonato. Sì, sì. No, perché Nietzsche era nazista. Chi cazzo gliel'aveva detto che era nazista? No, però l'idea era questa. Sì, sì. Nelle Taz, fa piacere per quello che sono rimasto legato a lui così, no? Si racconta della più grande, straordinaria festa, rave permanente del Novecento. E adesso purtroppo molti si scandalizzeranno. Che Fiume, guidato da Gabriele D'Annunzio. Vi dico questo. Primo, tanto per sgomberare il campo, Gabriele D'Annunzio non è mai stato fascista. Mai. Odiava i fascisti, odiava Mussolini, no? E tutto quello che facevano. I legionari di Fiume si chiamavano tra di loro compagni. D'Annunzio era un comunista senza dittatura. Chiaro? A Fiume c'era il divorzio, la droga libera, la possibilità di divorziare. L'omosessualità era ammessa. Cioè, cose per cui noi 60 anni dopo, 70 anni dopo, siamo ancora qui a batterci e a lottare. Quando D'Annunzio entra a Fiume, tutte le avanguardie dell'epoca inviano subito, in prima fila i Dada, inviano subito un messaggio di congratulazioni. Per cui io pregherei, siccome c'è una letteratura sì, siccome c'è una letteratura sconfinata, per curiosità, leggete cosa è successo in quella Taz dal 1920, dal 1919 al 1920. Grazie. Grazie dell'intervento, davvero. Io chiuderei qua. No, aspetta. Ah no, ci sono un sacco di domande. Vai. No, poi io voglio dire, Dino ha tirato fuori e sembrava quasi a Hacking Bay. No, infatti, in qualche grazie. Maniera sembrava quasi a Hacking Bay. Ci sarebbe da parlare tutta la sera. Ci sarebbe da parlare le cose che ha detto. Indubbiamente la suggestione di Dino più profonda, almeno per quanto mi riguarda, è stato quell'invito a stare insieme. Ecco, io credo che Hacking Bay si può prendere da tutte le parti, era un fattone a mio parere, ripeto, era uno che faceva delle cose che in qualche maniera erano anche una contraddittoria, una contro l'altra, anche in questa maniera si poteva vedere Hacking Bay. No, ma non c'è dubbio che lui abbia sempre scritto dalla parte dei più deboli, dei diseredati, dei barboni, dei rovinati, ubriaconi, sufi pazzeschi, gente che andava sempre da quella parte. E l'invito di Dino a stare insieme è proprio insieme da quella parte. Chiaro? Vabbè, scusate, io sarò brevissimo. Non mi soffermo su D'Annunzio perché onestamente a quest'ora mi può fregare meno. Mi soffermo solo su una roba che diceva prima. Brevissimo sarò. Lo stare insieme va benissimo, ma lo stare insieme a chi ha rinunciato alla propria storia di centro sociale, a me non interessa. Stare insieme a un cavallo proprio me può focchere di meno. Ok. No, ma allora è bello perché questo libro, questo autore dà adito al dibattito, cioè da, e quindi se c'è qualcun altro che vuole parlare. No, sulla la questione di Fiume io non entro direttamente, però il riferimento a quello che veniva fuori prima, cioè la poesia, la letteratura, la filosofia, l'arte, la ricerca anche mistica, religiosa. Cioè, allora, se noi prendiamo l'esempio di Fiume e lo vediamo come un paradigma positivo, io non ci sto. Cioè, se l'arte, la liberazione estetica, la ricerca veramente di altre strade, di altre modalità di entrare in relazione alla comunità è quella di fare violenza in senso di... No, attenzione, però, allora, su questa cosa di Fiume, di D'Annunzio, insomma, del surrealismo, del Dada, del futurismo, di tutti questi ismi, io mi tiro fuori. Cioè, se questa è la liberazione di creare altri nuovi paradigmi, ismi, preferisco appunto una autoproduzione più, non dico umile, ma più piccola, che piano piano cresca e che non abbia l'intenzione di fare grandi... Non so se qui si è parlato della biografia, non so se l'avete parlato, sì. Un po'. Comunque, ad esempio, a me, a Kim Bey, personalmente era arrivato per il fatto che alcuni punk di New York mi avevano detto che c'era un pazzo che metteva dei cartelli terrorismo psichico, TAZ... in giro per... è quello che ci arrivò a noi, giovani punk, ignoranti come capre, come diceva il Bellini, come dicevano gli anni 70, questa cosa. Quindi Akin Bey, insomma, in tutte le sue contraddizioni, mi è sembrato che sia stato chiaro il discorso che faceva Abo prima. Insomma, qui è anche, si tratta anche del superamento, del tentativo di vedere quello che lui ha lasciato, per l'altro noi siamo un anno dalla morte. Però io spero che ci siano altri interventi. Nel senso, è una questione secondo me molto spinosa, ma molto interessante, per un motivo banale. Lui in un capitolo del libro esordisce dicendo tutto quello che io sto dicendo, in realtà se non siete americani non ne tenete conto, perché sto facendo un'analisi spietata di quella che è la società americana, quindi se voi siete francesi, inglesi, italiani, e cioè magari mi sbaglio, magari dalle parti vostre esiste questo che da noi non c'è. Quando fa questo discorso lo fa in merito in realtà una cosa che c'è anche da noi, cioè che non ci sono più le classi, che parla dei borghesi, dice siete tutti borghesi, anche il più proletario è un borghese nella testa, e anche il più borghese ricco in realtà è un proletario di merda ormai, no? Fa questi discorsi qua. Tu hai detto una cosa importante, che è la stessa cosa che diciamo si è vista quando venne fuori a Akin Bey all'epoca dei centri sociali, quando vennero fuori i rave all'epoca dei centri sociali. Tuttora, dopo 30 anni, ci sono alcuni posti di movimento, con tutto il rispetto per il lavoro che fanno, che magari non hanno ancora capito i rave. Così come c'è gente che non ha ancora capito Akin Bey e non ha ancora capito che nelle sue provocazioni a 360 gradi e nelle sue analisi complesse, perché anche di molte delle cose che abbiamo detto stasera sulle classi, la borghesia, quello che c'è che non c'è, in realtà noi abbiamo detto tre parole, perché poi se vai a leggere il libro c'è un capitolo che si chiama Perché odio i borghesi, ma della borghesia ne parla almeno in quattro capitoli. Cioè l'analisi della borghesia di oggi e della uscita dalla borghesia, no? Della strada per uscirne, c'è in quattro capitoli, quindi veramente è complessa. E tanto quanto è impossibile condannare un libro come Taz perché c'è scritta una cosa tabù, tu hai detto la cosa importante, no? Cioè, all'inizio nel movimento politico in Italia, cioè inizialmente proprio non te potevi manco fumare le canne, poi dopo piano piano alcune cose sono state sdoganate. Nietzsche, dici tu, no, ce n'è voluto un po' prima che venisse sdoganato Nietzsche. Allo stesso modo, cioè, è scritto interventi su... brevi. Scusate, è scritto su tutti i libri che Mussolini veniva dal Partito Socialista, no? Però se tu lo scrivi in Taz, che magari, cioè, lui parla di un'esperienza, dell'inizio, di una scintilla, dice quella scintilla, come dici tu, hanno scritto i dati, eccetera. Poi l'esperienza di Fiume sarà diventata la merda, peggio merda del pianeta, ma quello che dice Hakim Bey è... parla di scintille, di spazi in cui si può iniziare a creare. Poi d'accordo che D'Annunzio, io non sono d'accordo sul fatto che D'Annunzio comunque, non sia mai stato fascista. No, Tobia, però Hakim Bey non dice questo. Stiamo parlando della vendetta di Zarathustra. Questo. E per esempio, una cosa che volevo buttare per chi ne vuole parlare è che nel libro La vendetta di Zarathustra lui ha coniato una nuova, un neologismo, tecnopatocrazia. Sulla tecnopatocrazia ha fatto delle riflessioni che a me hanno colpito rispetto al presente. Non so, cosa ne pensate voi? Cosa vuol dire? Adesso, domanda. Comunque, in breve significa che viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ha preso il sopravvento a tal punto da indurre sofferenza, okay? Anche psicologica. Adesso provo un po' a dare questa definizione. Okay? Siamo talmente diventati schiavi, e soggetti e dipendenti dalla tecnologia da essere ridotti a, appunto, ad averne bisogno fisico e mentale, tanto che appunto se poi domani dovesse mancare moriremmo o comunque staremmo molto male. Basta vedere cosa succede se ti cade il cellulare per terra, no? Si rompe il cellulare, non provi delle belle sensazioni, no? È come se ti si rompesse una mano quasi, no? È come se fosse diventata una protesi del tuo corpo. E quando la tecnologia supera ormai ha superato questo punto di non ritorno, Si inaugura un'epoca tecnopatocratica, diciamo, in cui la sofferenza è legata alla tecnologia e instaura una dipendenza. Io direi che volevo leggere l'ultima frase e poi direi che possiamo andare. Se c'è ancora qualcuno, Marco vuole il dibattito. Io ho tirato fuori questo argomento. Sì, non mi piacerebbe il dibattito, visto che sono arrivato da una situazione assurda come è il Salone del Libro di Torino. Insomma, quindi il rapporto con la tecnologia è un rapporto cruciale. Eppure le riflessioni sono scarse. Insomma, un po' questo dice, mi sembra, Hakim Bey. Ripeto, Hakim Bey, puoi vederci tutto, magari sbaglio, ma quello che dice questo libro è il fatto che non ci sia più una critica radicale su quello che sta succedendo nell'essere umano rispetto alla tecnologia. Non c'è un giudizio critico. Il problema è questo, quello che lui pone, e io sono perfettamente d'accordo, devo dire che mi ha aperto gli occhi anche, poi io non sono un esperto, non sono un punk, sono, che cazzo devo dire, però nell'aria ho sentito che le parole di Hakim Bey su quella parola in particolare, che poi lui era un maestro, perché infatti non è Taz è uscito fuori per un cazzo, Taz è uscito fuori perché era una... un manifesto, era proprio non so, un'ancora, una bussola quasi. Solo la parola TAZ, zone temporaneamente autonome, era stata una cosa importante. Quindi lui è un maestro, quindi tira fuori questa parola tecnopatocrazia, che giustamente tu hai detto, secondo te è... Sì, ho provato a spiegarla razionalmente, Nicolò ci ha detto, però io non... Io vorrei citare un'ultima frase che la scrive Marco nella introduzione. Dice: dopo tanta bile, tanto tribolare, come abbiamo visto ce n'è abbastanza, raggiunto però il nirvana, Hakim Bey è capace di darti qualche dritta. Dice, riusciamo a immaginare un sé più primitivo e autentico, spontaneo, che agisce direttamente il desiderio, eppure che desidera una vera comunitas con gli altri. Un sé allo stesso tempo più libero e non alienato. Questo per dire che non c'è solo l'individualismo e non c'è solamente uno sguardo interiore, ma c'è anche una ricerca sociale e politica che va oltre. E perché questa può essere una critica, come diceva anche Abbo prima, rispetto ad Akinbay, no? Da un certo punto di vista anarchico, più militante, uno sguardo più individuale, ma in realtà il suo è uno sguardo anche politico e sociale, non è solamente interiore. Cioè, mette insieme, cerca di mettere insieme questi due sguardi, uno sguardo spirituale e uno sguardo anarchico, sovversivo, sociale. La fine della mia prefazione era un po' il tentativo di dire cerchiamo una comunas, cerchiamo una comunità. Scusate, aggiungo solo una cosa, poi magari andiamo verso la conclusione. Il lemma della tecnopatocrazia viene identificato e proposto e suggerito in un momento particolare. Cioè, nella riflessione di Akinbay, lui passa dal dire c'è uno scontro tra il capitale finanziarizzato e l'ideologia, cioè tra il capitale per come lo abbiamo conosciuto nella sua involuzione dall'industrializzazione in poi e la delusione nei confronti dei socialismi truci e autoritari, e lui dice se la rivoluzione è fatta di teoria più organizzazione, cioè di ideologia più dominio, tentativi di costruire relazioni gerarchiche, quindi di ricostruire un mondo che assomiglia in maniera inquietante, anche se speculare, a quello che conosciamo, io cerco altre forme. Dopodiché, a un certo punto, con la caduta del muro, la caduta dell'Unione Sovietica, la caduta di quei socialismi deludenti, lui dice non c'è più un binarismo a cui sfuggire attraverso delle forme artistiche, creative, insorgenti. C'è un'unica tecnopatocrazia che, essendo figlia della ponerologia, è una dimensione decadente, terminale, ultima, in cui l'impero sta crollando e in cui i media tattici con cui abbiamo giocato per tanti anni nell'auto-organizzazione non hanno più quell'efficacia sovversiva, perché vengono sussunti all'interno di una dinamica che altri filosofi e teorici avevano benissimo individuato nella capacità del capitale di assorbire qualunque impatto, farlo proprio, mercificarlo, reificarlo. E quindi lui lanciava anche un invito a chi stava nell'auto-organizzazione in Europa, facendo il tour dei centri sociali, mi tengo su un piano diverso da Leoncavallo, Conchetta e Torchiera, però dicendo occhio che voi siete alla prova dell'auto-organizzazione non di fronte a una repressione militare, ma una repressione tollerante. Lui parla della tolleranza della repressione, cioè del fatto che qualunque nostra fuga in avanti, qualunque slancio può essere assorbito nella dimensione dell'impresa sociale, quindi non dell'escapismo attivo, ma della scapologia fiscale, della capacità di trasformarci in volontari. Sul tema del volontariato è stata una, cioè, ci ha avuto l'idea prima di tanti altri e ha detto non ci adagiamo mai sulla bellezza creativa delle nostre pratiche, perché a un certo punto, di fronte alla ritrazione del pubblico e alla pervasività del privato, rischiamo di fare da stampella e quindi bisogna essere continuamente provocatori, disturbanti e cangianti, perché anche quegli spazi che noi identifichiamo come tazza, a un certo punto ci accorgiamo che fanno parte dello spettacolo e questa roba non ce la possiamo permettere. Niente di più, niente di meno. Grazie, grazie dell'interesse e grazie a tutti. Il libro è lì dentro. Un abbraccio.